Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Vi ricordo subito la nostra mail sottotiro@radio24.it. A cosa serve? Serve innanzitutto per segnalare storie di resistenza alle mafie, al sud come al nord, iniziative, protagonisti, voci, denunce, storie. Questo è un anello della legalità, come amo io spesso dire a voi radioascoltatori. Questa trasmissione è solo un anello di legalità, ma tanto più forti saranno questi anelli, tanto più forte forse sarà la nuova resistenza, la resistenza dell'Italia alla pervasività delle mafie. Bene, antimafia, soprattutto antimafia dei fatti, è quella che noi vogliamo raccontare. L'antimafia dei fatti si declina anche attraverso gli spettacoli teatrali. Questa volta noi lo facciamo con il racconto di una pièce teatrale che si chiama La Violenza, che è stata portata in scena fino a poche settimane fa in Calabria e che presto lo sarà anche al nord. Sapete quanto siano cari per me i temi delle infiltrazioni della mafia al nord. Che cos'è la violenza? È una rappresentazione che parte da un percorso che è la mafia, ovviamente, ma è solo un pretesto teatrale per raccontare in realtà la violenza quotidiana, la violenza di tutti i giorni, in tutte le sue forme dunque. Ma per raccontarla e poi vi introdurrò l'ospite, partiamo da un frammento proprio dello spettacolo. E voglio dire che ci sono due maniere per uccidere un essere umano. Ci sono quelli che uccidono un essere umano giorno per giorno. Gli negano il lavoro, la scuola per i figli. Gli levano il rispetto umano, l'onore, il piacere di campare. Gli fanno pignorare la casa, lo fanno bocciare ai concorsi. Lo costringono a votare per un partito e dei candidati che disprezza e non conosce. E così gli levano la coscienza, il rispetto di se stesso, che è peggio che essere morti. Signor procuratore, ridurre un uomo così è 100 volte peggio che ucciderlo. Ecco, avete ascoltato questo modo tragico di morire, che è un modo purtroppo comune a troppa gente, soprattutto nel meridione. Buongiorno Luciano Pensabene. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, Luciano Pensabene ha curato l'adattamento e la regia della violenza, La Violenza di Giuseppe Fava. Sì. Ecco, questa è la premessa che vorrei lasciare a lei, Pensabene. Perché questo testo? E perché Giuseppe Fava? Allora, innanzitutto, perché Giuseppe Fava? Questo testo è un omaggio che noi abbiamo deciso di fare a Giuseppe Fava per il 25esimo anniversario della sua tragica scomparsa. Certo. Avvenuta con l'assassinio a Catania il 5 gennaio 1984, mentre andava a prendere la nipotina che aveva finito una recita teatrale. Esatto, coincidenze della vita, teatro e teatro. Questa è una formazione nuova, la compagnia nostra che si chiama Carro di Testi, da persone che in una maniera o nell'altra hanno tutte operato nel territorio di Reggio Calabria e si sono unite con l'intento comune di considerare il teatro come uno strumento, che innanzitutto con una funzione civile, certo. Così un esercizio di memoria. Di memoria collettiva anche. Assolutamente. Questo, siamo arrivati quasi naturalmente a Pippo Fava. E certamente. Oltre a essere un giornalista, Pippo Fava, un grande reporter, è stato anche un drammaturgo. Io dicevo, ricollegandomi a quel frame del vostro spettacolo, che purtroppo nel sud quel modo di morire che voi avete descritto nel vostro spettacolo, che ripeto arriverà anche al nord, purtroppo nel meridione è comune. Allora le chiedo, ma questo vostro spettacolo come è stato accolto da quella che viene chiamata con un po' di prosopopea la gente di Calabria? Ecco, i calabresi come hanno reagito a questo vostro spettacolo? Non dico tanto Reggio Calabria, che è una città comunque dai mille volti, ma nei comuni, nei piccoli comuni della Calabria? Guardi, nei piccoli comuni noi siamo stati anche in territori molto caldi in questi ultimi tempi, penso a Rosarno su tutti. Abbiamo avuto un'accoglienza molto favorevole, specialmente la gente che si avvicinava a fine spettacolo a ringraziarci, perché sovente in queste piazze le amministrazioni comunali prediligono una programmazione estiva, come posso dire, molto più leggera. Certo, ecco, certo, assolutamente. Quindi arrivare a un testo di questo tipo, la gente all'inizio è un po' spiazzata. Ho preferito, anche per un'idea mia, ricollegandoci al discorso di prima, come dire, una funzione anche didattica, non c'è solo. Ma guardi, io sono assolutamente convinto di quello che lei sta dicendo. Il teatro è una forma di cultura, è una rappresentazione dell'anima, e purtroppo le anime al nord come al sud spesso sono inquinate, quindi ben venga un'infiltrazione, un'iniezione invece di sani principi come quelli che voi descrivete, come quelli che descriveva Pippo Fava. E Reggio Calabria, in una battuta, invece come ha reagito? Allora, Reggio Calabria, abbiamo avuto la fortuna di esordire in un bellissimo teatro che è stato fatto da un anno, con, diciamo, un pubblico come dire, più attento a questo tipo di tematiche e di rappresentazioni, mentre la seconda siamo stati in piazza veramente strapiena, che non ce l'aspettavamo. E le devo dire che con grande anche stupore anche da parte mia, certo. C'è stata gente con le lacrime che è venuta a stringerci la mano. Allora, questo stupore è anche il mio, pensa bene, glielo dico sinceramente, perché Reggio Calabria, l'ho descritta non so più quante volte tra blog, radio e quotidiano nei miei servizi, è una città che purtroppo, a mio giudizio, dorme ancora troppo, quindi evviva il fatto che voi siete riusciti a scuoterlo con il vostro spettacolo. Nel ringraziarla, nel ringraziare in regia Carmelo Lauricella, in redazione Laura Faggini, io vi lascio come con quest'ultimo frame dello spettacolo La Violenza di Giuseppe Fava, riadattato da Luciano Pensabene grazie all'associazione culturale Carro di Tespi, e ascoltatelo bene perché fa riflettere molto. Buona giornata a tutti. Giuseppe Fava, giornalista, scrittore catanese, autore di romanzi e di opere per il teatro. Fava, per i suoi racconti a che cosa si è ispirato? Alle mie esperienze giornalistiche. Io ti chiedo scusa, ma sono esterrefatto dinanzi alle dichiarazioni del regista svizzero, cioè mi rendo conto che c'è una enorme confusione che si fa sul problema della mafia. Questo signore ha avuto a che fare con quelli che dalle nostre parti, come Sciascia giustamente dice, sono scassapagliare. C'è delinquenti da tre soldi che esistono su tutta la faccia della terra, i mafiosi sono in ben altri luoghi e in ben altre assemblee, i mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione.